mondo al piatto del corso in questione. Allora, questo è un corso, come sapete, si può aprire un po' in qualche parte, sì, che ha una minima aria, poi tutto bloccato. Vedo un po' se lei se non muore il polmonite, vuole dire poco, grazie. Ora, la prima cosa da fare, naturalmente, è procurarvi il libro di testo per poter seguire questo corso. Il libro di testo in questione è per ora uno solo, poi si aggiungeranno per gli esami, in genere sono due altri libri, massimo tre libri. In genere questo libro è L'Education Sentimentale di Flaubert, che dovete quindi avere, rigorosamente in francese, naturalmente. Ora, siccome voi siete studenti del primo anno, chi sono gli studenti del primo anno qui? Una buona parte, naturalmente, quindi avrete difficoltà, per non dire altro, naturalmente, a leggere un libro come l'Education Sentimentale, e quindi vi dovrete per forza aiutare con una traduzione italiana del medesimo. Però io la traduzione italiana del medesimo qui non la voglio vedere, è chiaro il punto, non la voglio vedere qui e tantomeno naturalmente agli esami. Quindi fate questo esercizio molto importante, che è guardare il testo in originale, guardare l'altro testo. Tra l'altro questo è uno dei modi più in assoluto efficaci di imparare una lingua. Che cosa vi si chiederà all'esame? All'esame vi si chiederà di leggere e commentare solo i passi che sono stati commentati qui. Quindi tutto il resto voi potete leggerlo in italiano. Naturalmente chi lo legge in francese meglio è, naturalmente. Ma all'esame si portano solo i passi commentati, poi naturalmente si porta tutto il libro per bene, anzi non per benissimo, nei minimi dettagli. Questo concetto del minimo dettaglio, io sono uno dei più, come dire, vecchi accademicamente, professore, non veramente non solo accademicamente, ma insomma comunque accademicamente, professore di questa facoltà, sono uno dei fondatori dell'università, per intenderci, mi riesce sempre difficile ai ragazzini farlo capire. I dettagli vuol dire dettagli, se non sapete il significato della parola dettagli dovete vederlo sul dizionario, cioè anche le piccole cose, tutto. If you know what I mean, che è chiaro il concetto, no? Ecco. Altra cosa, questo libro dovete procurarlo subito. Come fate subito? Andate alla libreria francese, al Centro Culturale Francese, a Piazza Campitelli, lo ordinate, oppure andate in un altro grosso libraio, potete andare da Feltrinelli, ma la Varma sicuramente, perché l'Educazione Sentimentale è uno dei più importanti del mondo, insomma, quindi difficile che non ce l'abbiano. La cosa importante è che voi lo abbiate subito. Chi non ce l'ha non può frequentare queste lezioni, perché le lezioni saranno un commento del libro stesso, quindi se non hai il libro, no, fai semplicemente l'onore di venire a sentire quello che dico, è un onore naturalmente che lusinga la mia vanità, ma lì ci fermiamo, no? Meglio che scambiarsi reciproci omaggi sui propri, sulle proprie qualità, e invece cercare di studiare, di capire questo libro. Chi non l'avesse, su internet, come ben sapete, credo che si possa scaricare. La Bovary si scarica integralmente su internet. Madame Bovary. Ma l'Educazione credo anche, ecco, credo anche o comunque parzialmente. La cosa fondamentale è che dovete fermare. La cosa fondamentale è che dovete. La cosa fondamentale è che dovete averla. Va bene? Ecco. Vedo che questo ha lasciato un po' in dubbio, lei ha qualche dubbio sulla. Non ha dubbi sulla. Poi lei mi conosce, sono padre, mi conosce abbastanza. Le lezioni sono obbligatorie o no? Le lezioni dell'università, una facoltà di lettere, non sono obbligatorie. Ecco, adesso poi dirò una cosa riguardo le due ragazze che sono entrate in questo momento. Dai, il terzo punto riguarda le due ragazze che sono entrate in questo momento. Le lezioni non sono obbligatorie, però per me lo sono. Intendo dire che le lezioni non sono obbligatorie, quindi non non si chiedono firme, tutte queste cose qui, no, assolutamente. Però io vi consiglio fortemente di seguire, perché altrimenti l'esame è molto difficile farlo. Ho detto difficile, non impossibile. Si tratta di portare un testo in più, ma non è il fatto del testo in più, il fatto è che non capite come funziona poi il tutto. Quindi, purtroppo, nonostante lodevolissimi sforzi di persone che cercano di fare l'esame per così dire dal di fuori, senza seguirlo, i risultati positivi sono in una percentuale assai scarsa. Per cui io vi chiederei, il vostro naturalmente esclusivo interesse, di seguirlo. E concedendovi un numero di assenze per mal di gola, un attacco di appendicite, parto, vediamo anche quello che può anche esserci naturalmente, e queste sono naturalmente assenze lecite, insomma, però per 3-4 volte massimo. L'espediente a cui ricorrono tutti gli studenti di questo mondo, a cui ricorrevo anch'io, il mio compagno di banco era Noè più o meno, è quello di passarsi gli appunti, va bene? Allora io seguo il lunedì Gualdo e il martedì, e cioè, hai capito questo giochetto qua? Bene, dovete sapere che questo atteggiamento, questo comportamento è pericolosissimo, perché prendere appunti è l'attività intellettuale più difficile della vita, più difficile della vita. Fare, inventarsi la teoria della relatività ristretta di Einstein è più facile che prendere dei buoni appunti. È chiaro questo concetto? Nel prendere appunti, o ci sono gli imbecilli che prendono appunti su tutto. Io mi ricordo che c'era una ragazza, molti, molti anni fa, in una delle università in cui ho insegnato, che a un certo punto io dissi nella foca, per favore chiuda la finestra, e la ragazza ha scritto per favore chiuda la finestra. Prendere appunti significa avere una grossissima capacità di sintesi, una capacità di seguire la persona senza emozionarsi, per esempio, se tu non capisci qualcosa e quindi non sei in grado di riportarlo. Nel corso dell'università imparerete, forse, ma non è detto, a prendere buoni appunti. Nella misura del possibile, non prendete appunti di altri. Usate solo i vostri appunti. Perché voi avete magari confrontato con altri, questo sì, senz'altro, ma quest'idea della frequenza a corrente alterna, io vengo un giorno, tu vieni l'altro, quella è pericolosissima. Se vi trovate in condizioni di doverla fare per motivi di lavoro, per coincidenza di altre lezioni, allora il consiglio che vi do è di non seguire il francese, avete capito bene? Di seguire le altre lezioni e a francese di portare il programma dei non frequentanti. L'esito sarà migliore. L'esito peggiore è quando uno salta, mettiamo un certo numero di lezioni, è convinto di aver seguito e poi all'esame viene interrogato su una zona che non ha seguito, ma soprattutto perde il senso dell'insieme. Anche questo mi pare un concetto molto chiaro. Terzo punto. Che guarda le due ragazze che sono entrate poco fa, è credo regola di elementare cortesia, che è pleonastico, e mi scuso per questo, ricordarvi, essendo voi non ragazzini di scuola, ma giovani di università, è pleonastico ricordarvi, ma repetita iuvant, ecco, come si dice, che non si entra per nessun motivo quando la lezione è iniziata, e neanche parole per appulcrare un argomento di questo genere, non si esce prima che la lezione sia finita. Questo per non disturbare due categorie di persone: la categoria A, alla quale appartiene il professore che sta parlando, perché il professore sta parlando anche a te, e tu come rimarresti se il tuo interlocutore ti volta le spalle e se ne va mentre stai parlando, ne resti come minimo che un cafone. Due, per non disturbare, categoria 2, per non disturbare i vostri compagni. Vi pregherei anche, ma questa è una cortesia che sommessamente mi preme di chiedervi, direi sommessamente che non è assolutamente vincolante, ma vi sarei molto grato se poteste andare incontro a questo mio recondito desiderio. desiderio un po' inconfessabile per la verità di non masticarmi la gomma davanti al naso. Ci sono delle persone che masticano gomma rapacemente, direi. Tutto questo è disturbante. Ecco, se potete, ma le ultime file, chi mastica gomma non mi dà noia, ecco, anche se io vedo bene, ma insomma qui davanti facce, mandibole che si muovono, può togliere, per così dire, la concentrazione. Come vedete, si tratta di pochissime cose. Vi pregherei, cosa che faccio, ma poi insomma dipende dalla timidezza, dalla, come dire, dalla cointessenza, è una parola che ho inventato in questo momento, dalla cointessenza psicologica della persona, farlo. Vi pregherei di venire al ricevimento degli studenti, che sarà il lunedì e il giovedì, prima della lezione, immediatamente prima, ove mai aveste delle cose da chiedermi. Tutto questo è utile, vincendo la timidezza, vincendo la, avendo anche naturalmente la pazienza, l'attenzione sufficiente, insomma. Perché non solo è importante avere un contatto con lo studente, ecco, con un contatto seppur minimo, ma è importante che voi entriate nell'argomento. Pensate che voi qui avete una possibilità, la possibilità di laureare. Pensate con attenzione che la laurea nel mondo del lavoro, segnatamente una laurea in lettere, vale molto poco. Non so se qualcuno vi aveva informato di questo argomento, ma è così. Però una laurea d'impresa può valere moltissimo. Ecco il punto. Perché può valere? Il motivo più esterno è che se avete una laurea con bei voti in lettere, sto parlando di lettere, io ho due fratelli di cui uno è stato professore di matematica e l'altro di fisica, quindi so gli argomenti di cui parlo, e una laurea in lettere con una media bassa conta pochissimo. Quindi voi dovete cercare, un consiglio che vi do per tutti i vostri esami che dovete affrontare, di avere voti i più alti possibili. Chiaro? Quindi rifiutare voti troppo bassi. Non adottate il consiglio, la logica di dire accetto un voto basso così me lo tolgo dalle scatole, questo esame, eccetera. Perché poi ve lo ritroverete, questo esame brutto, con un brutto voto, ve lo ritroverete al momento della laurea. Che magari farete la tesi, che avrete benissimo, ma vi dovranno dare un voto inferiore. E una laurea in lettere che sia sotto i 105 come votazione non vale niente. L'altro aspetto molto importante è questo. Qui c'è una possibilità unica che avete nella vita, unica, che è quella di allargarvi smisuratamente il vostro orizzonte intellettuale, se volete farlo. Perché così come è costruita l'università, non è adatta a farlo. Allora voi mi dite, come si fa a farlo? Lo si fa se si entra in una compenetrazione con gli argomenti che tu stai facendo, e, se possibile, con il professore con cui sei in rapporto, il professore che ti fa lezione. Naturalmente esistono moltissimi professori che se ne fregano, esistono moltissime materie che vi ripugnano, allora potete cambiare. Meglio rischiare nei limiti che è possibile, in cui è possibile, meglio fare un piano di studi di slacco, ma con cose che ti piacciono, che fare un piano dei limiti in cui è possibile, ripeto, per legge, che fare un piano di studi precisissimo, ma con cose che non ti piacciono. E guardate che le due cose devono piacere. Devono piacerti l'argomento e il docente. Perché se ti piace solo l'argomento, ma il docente non vale nulla, e qui siamo tra esseri umani, c'è chi vale e chi non vale. Non serve. Se ti piace molto il docente, ma non ti piace l'argomento, ugualmente non serve. Quindi il primo anno, ecco, vi do questo consiglio, guardatevi intorno il più possibile per cercare di non sbagliare strada subito. Ecco, quindi seguite con quello che vi ho detto. Mi pare che vi ho detto tutto, perché il punto che è stato suscitato dalle due ragazze che improvvisamente sono entrate per fare la lezione. Chi è che si è detto? È lei che è entrata? No, mi ha ricordato la sua faccia. Questo ve l'ho detto, del libro ve l'ho detto, della frequenza ve l'ho detto, mi pare di offrire satis, si suol dire, sat prata di Beirut, dicevano i latini, i prati hanno bevuto abbastanza acqua e quindi possiamo parlare, cominciare con il nostro argomento. Lo scrittore che consideria, prego? Scusi, volevo chiedere, quindi chi fa il secondo anno non dovrebbe no. seguire questo? No, chi fa il secondo anno? No, secondo anno di francese, non il secondo anno. Questo è il primo anno di francese. Ah, se lei è iscritta al secondo anno, non ha mai fatto un anno di francese. Questo è per lei. Ah, capito bene? Sì, sì. Questo è il modulo A, anche se la burocrazia purtroppo spegne poi il fascino delle cose, si chiama modulo A. Lo scrittore che, di cui parliamo, vorrei sapere così, a titolo, se qualcuno l'ha sentito nominare mai, Flaubert, chi l'ha sentito nominare? Sì. Oh, basta, ho finito, me ne vado. È uno scrittore dell'Ottocento, ed è uno scrittore che è passato, per così dire, non solo alla tradizione, ma vorrei dire alla leggenda, per il suo gusto esasperato, squisito ed esasperato al tempo stesso, della scrittura, delle immagini. Gli piaceva costruire immagini scrivendo, usando la parola giusta. Uno dei grandi segreti della scrittura per chiunque è la proprietà. La proprietà, parola retorica, indica l'assoluto adeguarsi, per esempio, di un aggettivo a un sostantivo, oppure indica che quello è il verbo giusto cui dovevi ricorrere. In queste cose Flaubert era un maniaco. Andava avanti con una lentezza esasperante, eppure lavorava freneticamente in queste lunghe notti della sua casa castello di Croissy sulla Senna. E quando lavorava aveva l'abitudine spesso di ripetere ad alta voce le cose che scriveva. Apriva la finestra, era un stanzone meraviglioso con finestra, e in piena notte immaginate che leggeva il suo testo ad alta voce con i barcaioli, ancora qualcuno che c'era, che stupiti guardavano verso l'alto. Era quello che lui chiamava la gueulade, la gueule, come la sgolata. Perché faceva questo? Proprio perché? Perché per sentire se c'è un ritmo in una frase bisogna gridarla, la frase. Se tu la frase la sussurri, mentre stai scrivendo sussurri la frase, non senti niente, non senti il ritmo. Per esempio non senti una cosa. Se hai fatto una ripetizione, se hai fatto un'allitterazione, se hai fatto una cacofonia, cioè un cattivo suono, tu non lo senti. Allora, dirlo, quello qui è vecchio, pensate, sono vent'anni che c'è sempre la pazienza di tanto in tanto. Allora dirlo ad alta voce gli faceva sentire se la frase era venuta bene o no. La frase era tutto, ma lui era uno scrittore e guarda caso non era un poeta né un saggista, era un romanziere. Cosa fa un romanziere? Un romanziere racconta delle storie. Bene, a lui del raccontare non importava quasi niente. Quello che gli importava era scrivere le belle frasi. Quando dico le belle frasi, state attenti, non dico le belle parole, perché lui diceva in una sua bellissima considerazione che quello che conta non sono le perle, ma è la collana. Quello che conta non sono le belle parole singole che tu puoi trovare, ma è come le metti insieme, è il ritmo complessivo, la musica, la canzone. Per scrivere bene bisogna trovare la propria canzone. Quando dico trovare la propria canzone, intendo dire che anche una musica banale, leggera, con esclusione naturalmente degli orrori sanremesi, evidente, ma anche una musica leggera di quella che voi giovani sentite e che sentiamo tutti, che fanno, sono un patrimonio immortale della nostra personale vita, naturalmente. Le canzoni, sapete, poi si sentono secondo generazione, non so, io le canzoni della mia generazione, altre, alcune sono dentro di me profondamente, insomma, le, diciamo, quelle vostre le conosco poco e poco mi piacciono, ed è giusto che sia così. Ma la canzone è tutto. Un giorno chiesero a Flaubert, che stava per concludere, un amico lo chiese, di cui parleremo, stava per concludere Madame Bovary, disse, quanto ti manca ancora? Insomma, che hai rotto le palle ormai con questa cosa, qui che non finisce più, eccetera. E lui disse, mi mancano ancora 15 pagine. Oh, Madonna, 15 pagine, allora chissà quando finisci. Visto il ritmo a cui va. No, disse lui. Adesso ho la canzone in testa, ci metterò poco a farlo. E infatti riuscì a farlo in pochissimo tempo. Anche, parlo di canzoni di altro tempo, anche che so, Mina, Ornella Vanoni, possono servire, a cantanti più attuali, anche se è difficile trovarli. Stai per dire, non Venditti. Possono servire a scrivere. Bisogna trovare la canzone giusta. Ecco perché, tra l'altro, questo per Incidence, quando si scrive e si commette l'errore di non scrivere più, di lasciare il testo, di non scrivere più per qualche giorno, no? Perché uno ha altro da fare, eccetera, è uno sbaglio mortale. Perché hai perso la canzone. E per riprenderla è difficilissimo. E chi non è esperto del mestiere, chi non è pratico, non si entra in azione, ma questo qui hai visto che subito se ne è andato. Ha avuto paura. È facilissimo perdere il ritmo. È facilissimo perderlo. Per cui nulla di essa si allinea. Se voi cominciate a scrivere, dovete continuare, perché è in quel modo che si forma il ritmo. Uno scrittore italiano che io non ammiro particolarmente, ma che era certamente un notevole scrittore, quelli che conoscete tutti, voi ragazzi dalla scuola, che era Alberto Moravia, lo conoscete tutti Moravia, Moravia era uno che piazzava il sedere davanti alla scrivania alle 8 del mattino e lavorava 4 ore ogni giorno. E allora chi gli diceva, ma se uno non ha ispirazione, diceva, l'ispirazione viene lì, viene mentre lavori, cioè l'ispirazione viene in due modi, la parola ispirazione non è una parola fatua, è tutt'altro che farlo. L'ispirazione viene. O se stai guardando qualcosa della vita reale che hai intorno, o se hai un ricordo, un'immagine che ti torna alla mente, oppure nel lavoro. L'ispirazione viene creata dal lavoro. Lui voleva scrivere ed era talmente innamorato dell'idea di scrivere, non di raccontare, che uscì una sua espressione bellissima, che è questa. Dice, io vorrei scrivere un libro sul nulla, senza una storia, perché in questo modo verrebbe fuori la mia capacità di scrittura, si vedrebbe la scrittura. Se tu sei attirato dalla storia, puoi non vedere bene la scrittura. Bene, il libro sul nulla l'ha scritto. Questo libro sul nulla è l'Education Sentimentale. Perché sul nulla? Perché non succede niente. In questo grosso romanzo non succede niente. Meglio, succedono fatterelli piccoli, abbastanza inconsistenti, non c'è nessuna scena madre che non sia inficiata, aggredita dall'ironia, il lettore cerca disperatamente un senso e vede che il senso, come dice la celebre canzone di Vasco Rossi, il senso non c'è. E perché tutto questo? Perché lui sta raccontando una vita e la vita non ha senso. Quindi, come vedremo, questo libro sul nulla è un libro in cui questa definizione sul nulla funziona nel senso che quel che è raccontato vale come niente, come se fosse il nulla. Voleva scrivere un libro sul nulla e voleva scrivere e la mamma di Flaubert un giorno gli disse una frase che lui ricordò in una lettera, e disse che questa frase era bellissima ed era adatta a capire, veramente adatta a mostrare quello che lui era. La frase era questa qui: la rabbia delle frasi ti disseccherà il cuore. Frase meravigliosa, la rabbia delle frasi, cioè il trovare la frase giusta, perfetta, fa sì che tu dei sentimenti poi te ne infischi. La cosa importante è che la frase sia bella, non solo che suoni bene, ma che sia bella, che esprima una sua bellezza. Io ho avuto la... esprimo la sua bellezza, io ho avuto la fortuna, sono stato un certo tempo della mia vita critico cinematografico, di incontrare il grande regista Michelangelo Antonioni. Avete presente qualcuno come nome? Ecco. E fu appunto questo regista che nei rari e preziosi colloqui, peraltro che ebbi con lui, che io ero giovane, e mi chiesi: ma perché lei fa un film? Perché lei fa un film? Lo fa per compiacere il pubblico, per cercare di andare incontro a certi temi che sono vivi nel pubblico. Lo fa per esprimersi, perché non può fare diversamente. E lui mi diede una bellissima, meravigliosa risposta, che per me mi ha segnato nel corso della vita. Vi faccio presente che Antonioni era un uomo molto bello, adesso è un uomo di grande bellezza. Comunque la risposta era conturbante, disse: io faccio un film per cercare di essere più bello. Per cercare di essere più bello. Cioè uno scrive per avere un'immagine di sé più bella. Quindi non importa se il cuore perde, stando a queste cose, la rabbia delle frasi ti disseccherà il cuore. Importa che quelle frasi siano belle. Introducendo il personaggio Flaubert, bisogna dire che Flaubert era un uomo straordinariamente solitario. Bisogna capire bene cosa vuol dire un uomo solitario. Tutti sapete cosa vuol dire una persona solitaria. Una persona solitaria è una che non ha amici, ha pochi amici. In genere quando si ha la vostra età si hanno molti amici, sono amici un po' finti, un po' apparenti. Poi dopo, voi avrete fatto caso nel corso degli anni, crescendo, che avete depennato dalla vostra agenda o telefonino, ormai, molti numeri, nomi di persone a cui non telefonate più. No? Vi è accaduto questo mai? Vi è accaduto. Compagni di scuola. La solitudine è una strana cosa su cui alla vostra età, ecco, è opportuno riflettere, anche perché poi è il destino di ognuno nella vita, Diceva Verga che ognuno muore solo, ecco. Ognuno muore con le spalle voltate all'altro, con le spalle, ricordate Mastro Don Gesualdo, se qualcuno, chi ha detto Mastro Don Gesualdo? Beh, c'è qualcuno che l'ha letto, ecco. Con le spalle voltate, lei l'ha letto? Ecco, benissimo. E la solitudine è un qualcosa di cui si ha una sorta, quando si ha il vizio, come per il fumo, una sorta di bulimia. Sei solo e vorresti essere ancora più solo. Non riesci più a toglierti questo vizio della solitudine di dosso. Il telefono squilla sempre meno, la gente ti cerca sempre meno. E tu hai un fastidio quando la gente ti cerca. E però stai male. E però non riesci a evitarlo. È è un qualcosa di abbastanza simile appunto agli, a, all'anoressia, alla bulimia, cioè quando uno, dice Freud, che quando noi blocchiamo una funzione, la restiamo, questa funzione poi si atrofizza. Capito? Se tu mangi poco, mangerai sempre di meno. Superato la prima crisi, le diete funzionano in questo modo. Lo stomaco si stringe, mangi sempre meno. Voi sapete molto bene che per motivi di ormoni la possibilità di fare all'amore è molto alta quando è giovane. Il maschio raggiunge il meglio, questo volevo dire anche per avvertire i maschi presenti, e per mettere l'altro in guardia. Il massimo raggiunge il meglio a 18 anni. Dopodiché è un andar giù. È un andar giù proprio dal punto di vista elettivo. È un andar giù. La donna più avanti raggiunge il meglio. No, è stato calcolato intorno ai 24-25 anni, poi anche lì comincia una, non dirò un dignitoso tramonto, perché arrivano poi delle stupende nuove albe dopo nel pieno della maturità, però insomma la notte appunto a venire, a un certo momento arriva pure la notte, evidentemente. Ecco, questo mi ha fatto perdere, cosa stavo dicendo, per il filo del pensiero. Freud. Ci sono degli anziani, o quelli che voi reputate nella vostra giovanile età, la poppata, la post-poppata anziani, che hanno un'attività sessuale che voi ragazzi ve la sognate. Come mai? Come? Hanno esercitato l'organo. È la verità. Se tu smetti di avere rapporti sessuali, poi non riesci più a una certa età, mentre un giovane no. Se tu a una certa età smetti, è difficile, naturalmente, tenendo conto di un calo fisiologico, se tu metti in moto le zone sessuali del corpo, la cosa funziona bene, come camminare. Prova per un incidente a stare seduto sulla seggiola a rotelle per un mese. Poi vedi un po' come cammini. Dobbiamo, per così dire, allenarci a tenere testa la vita. Flaubert era un solitario innamorato della solitudine e odiava il matrimonio. Quando era bimbo non faceva pensare che sarebbe diventato gusti, come lo chiamo, insomma, con la Y finale. Era un bambino che imparava a leggere con difficoltà estreme. In casa erano in tre. Il padre era un medico, era il primario dell'ospedale di Rouen, persona con un pezzo grosso. Poi c'era il fratello che aveva 9 anni più di lui e si chiamava Achille. E poi ci fu la sorellina, 3 anni di meno, che si chiamava Carolina. Vabbè, tutti erano normali, solo lui sembrava, come lo chiamavano in casa, l'idiota della famiglia, lo scemo della famiglia. Se ne stava in un angolo, parlava pochissimo, normalmente stava con il dito in bocca, parlando pochissimo. Imparava a leggere con difficoltà e, come sapete, in tutte le famiglie poi capitano queste sciagure, queste iatture, per cui c'è un cretino di famiglia che bisogna che i fratelli poi si addossino, i genitori, quindi avevano anche pazienza, Gustavo, ma insomma poi vedrai che ce la fai, vedrai il carro, eccetera. Il Gustavo annotava, dicendo, mortacci vostri, annotava dentro di sé, ci farò vedere, tutti morirete e io sopravviverò in una gloria permanente. E infatti cominciò a leggere, e quando prese a leggere non lo fermarono più. Viveva nelle sue letture e viveva nei suoi fantasmi. Uno di questi fantasmi lo scoprì con il lavoro del padre. Il padre vi ho detto che cosa era, un medico. Essendo una famiglia molto abbiente, avevano nell'ospedale di Rouen un ampio appartamento a disposizione del primario. Lui e la sorellina andavano nel cortile e guardavano da una finestra quello che succedeva. E sapete cosa vedevano? Dei morti su dei tavoli e il padre che tagliava questi morti, che faceva delle autopsie. Quando la psicanalisi non era ancora stata inventata e si aveva poca cura della psicologia dei bimbi, ma si cercava naturalmente di tenere lontano da queste cose orrende. E voi sapete che un bambino, più tu cerchi, bambino, chiunque di noi, insomma, no? Più tu cerchi di tenerlo lontano da qualcosa che desidera, più lui va in quella direzione. Quindi andavano di soppiatto, lui e la sorellina, per guardare questi corpi nudi squartati. E il gusto, se mi intendete, della carne nel senso di carne da darci a letto assieme, del sesso, entrò in lui in collusione strettissima, in aggancio con il senso della morte. Quest'idea della carne e della morte, che una donna nuda lì fosse al tempo stesso donna di desiderio, donna da desiderare, ma donna morta, questa fu un'idea che ebbe sempre. Un suo godimento infinito fu quando descrisse la morte della sua eroina più importante, cioè Madame Bovary. Madame Bovary morì per arsenico. In realtà, tempo fa avevo osservato che è abbastanza strano questa morte per arsenico, poteva sembrare strana, perché Madame Bovary aveva avuto la possibilità di uccidersi in altro modo, cioè buttandosi dal solaio. Perché poi al momento opportuno Flaubert sceglie questa soluzione molto più complicata? Doveva andare dal farmacista, obbligare il farmacista a darle l'arsenico. Anzi, il farmacista non gliel'avrebbe dato, il garzone del farmacista. E poi tutto quello che ne conseguiva. Perché voleva raccontare una morte lenta, buttandosi dalla finestra, sarebbe finito lì. No, voleva raccontare il colore argenteo, la crema argentea che appare sulle labbra quando ci si è avvelenati con l'arsenico. Voleva dire uno per uno gli urli che faceva un agonizzante che non riusciva più a respirare. Questo gusto del macabro e della carne sono fondamentali per capire Flaubert, tenendo conto che, come vedremo fra poco, lui ha un'immagine dell'amore altissima, ma al tempo stesso questa immagine altissima si giustappone a un'immagine dell'amore la più carnale possibile. Quello che noi cerchiamo di dimostrare in questo corso è che in realtà le due immagini non sono affatto così lontane tra loro, ma che nell'immagine altissima e pura dell'amore ci sono dei bisogni carnali accesissimi. Vi ho parlato di questa famiglia, ed era una famiglia borghese. Ora, per le nozioni che voi avete avuto dalla scuola, tutti sapete che la parola borghesia, durante l'età romana, era una parola tabù, La borghesia era odiata. C'è stato qualcuno che naturalmente ha fatto una battaglia campale contro la borghesia nell'Ottocento, si chiamava Carlo Marx. Voi appartenete tutti, tutti, nella stragrande maggioranza dei casi, a una società omologata borghese. Diciamo che qui siete tutti all'università, il proletariato non viene qui, il sottoproletariato è ridotto a zone etniche e sociali, che sono gli immigrati, per esempio. Siete una classe, siamo una classe che è stata oggetto di odio profondo. Perché? Perché la borghesia è stata ed è così odiata? Perché anche nel linguaggio corrente, se si dice a una persona sei un borghese, lo si dice con senso di disprezzo. Fermiamoci un momento su questo punto, anzi aspettiamo a rispondere, ma intanto diciamo una cosa interessante. Flaubert apparteneva a una famiglia iperborghese, che non odiava affatto, anzi, che amava moltissimo. Quindi c'è una contraddizione patente in lui, mi seguite? Tra il suo odio per la borghesia e il fatto che sia una famiglia così borghese. Flaubert non viveva in una casa, ma in una casa castello. Quando andò a fare un viaggio in Oriente, che era molto importante per lui, lo vedremo, ebbe dalla madre una parte dell'eredità paterna, quasi tutta l'eredità paterna. Doveva fare un viaggio di 2 anni, va bene? Gli furono dati 27.500 franchi, stiamo parlando del 1849. Per sapere quanto erano 27.500 franchi, sono stati fatti naturalmente dei calcoli, dunque per avere 27.500 franchi, un operaio doveva nel 1849 in Francia lavorare 11 ore al giorno per 300 giorni l'anno per 40 anni. Quindi una somma di 27.500 franchi era paragonabile a decine di milioni di euro. La famiglia era ricchissima. Ma non era solo questione di ricchezza. Era il fatto che lui, alla caratteristica borghese della sua famiglia, era legato, per quanto odiasse la borghesia, al punto che quando venne incriminato per oscenità, per il libro che aveva scritto Madame Bovary, disse al fratello, chiedendo aiuto, di a tutti che io appartengo alla migliore borghesia di Rouen. Quindi al momento opportuno si appellava a questa borghesia. E allora perché odiava la borghesia? Perché lui odiava la borghesia, ma perché era tanto odiata nell'Ottocento la borghesia. Ecco, questo lo vediamo alla prossima lezione, che è giovedì. Voi sapete il vostro orario è lunedì dalle 12 alle 13, giovedì 12-13, venerdì 14-15. E per i ragazzi del terzo anno, invece, del modulo B, adesso comincia il loro corso, quindi dalle 13